Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Appassionati di musica di Radio 24, buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e da Francesco Tromba. Ciao a tutti. Pronti come sempre qui dal Groovemaster Studio per dare il via al soundcheck, la prova del suono numero 354. Prova del suono, quella di questa sera, che ci servirà per analizzare i dati importantissimi per noi musicisti, appassionati di musica e producer discografici che sono venuti fuori da questa ricerca che è stata commissionata alla Ipsos Connect dalla IFPI. Che organizzazione è questa sigla? È la Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica, quindi chiunque produca musica. Sì, musica, si sono riuniti in questa associazione che tutela ovviamente gli interessi di chiunque produca materiale discografico. Bene, e da questa indagine sono venuti fuori dei dati importanti. Intanto, perché è stata fatta l'indagine? Perché questa associazione di industrie discografiche internazionali si è rivolta alla Ipsos per questa indagine? Per quale motivo? Allora, questa associazione è da sempre impegnata contro la pirateria, infatti ha subito anche diversi attacchi da parte dei pirati attraverso i loro siti internet, però appunto lo scopo di questa ricerca è quello di fare una fotografia di quello che è il momento, visto che comunque ci sono talmente tanti siti e talmente tanti modi diversi di ascoltare la musica oggi tramite i servizi di streaming o anche dei siti come Bandcamp o SoundCloud. Comunque cerca di dare una fotografia attuale. E infatti questo report è basato sulla ricerca condotta tra gli utenti internet per la maggior parte di età fra i 64 e i 16 anni in 13 dei maggiori mercati discografici internazionali. Quali sono questi mercati? Sono ovviamente gli Stati Uniti, certamente. Canada, Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia, Australia, Giappone, Corea del Sud, Brasile e Messico. Quindi fra i maggiori mercati c'è anche l'Italia. Sì, piccolo paese, strano, ma c'è anche l'Italia. Piccolo paese, ma abbiamo anche noi la nostra importanza per la IFPI. Che sigla, ragazzi. Va bene, però questo è il nostro programma di musica e quindi io direi di dare il via al suono del soundcheck di Radio 24 proponendovi il ritorno discografico di una volta era veramente un giovane talento, perché io l'ho scoperta con Quincy Jones, in una produzione di Quincy Jones, quando questa ragazzina aveva 16-17 anni. Adesso invece è una cantante matura, affermata, richiesta, con vari album a suo nome alle spalle, diverse collaborazioni importanti, forse l'ultima proprio con gli Experiment di Robert Glasper, tra l'altro un album che ha vinto anche un paio di Grammy Award. E questa ragazza, ormai non più giovanissima, si chiama Brandy, un vero talento. Sì, tra l'altro è cugina di un rapper famoso, è cugina di Snoop Dog, quindi comunque, no, sì. Ma sul serio, ma sì, come fai a saperle queste cose? L'ho scoperto per caso, però ma non credevo. Ma pensa a questi quando si riuniscono a Natale. Sì, infatti. Questa canta così, quell'altro, vabbè, è un gigante ormai della discografia. Non so se sono magari in ottimi rapporti, se si incontrano a cena a Natale o magari non fantastico. Vedono da anni. Ma pensa che famiglie. Sì, fantastico. Allora, Brandy, che cosa ha fatto? Questo non è un album nuovo, vero? No, fa parte di un progetto, in realtà non si capisce se farà parte di un disco in futuro, perché sono due brani completamente fuori dalla discografia, nel senso che lei ha avuto l'ispirazione, li ha scritti, li ha prodotti e poi ha fatto anche dei video su YouTube. Ma infatti è cambiato anche il rapporto degli artisti con la musica. Una volta si entrava in studio per produrre un album, adesso abbiamo capito che attraverso internet tu puoi pubblicare un album ma puoi dare la possibilità agli utenti di acquistare un singolo brano. Mi sembra una cosa buona, perché poi avrai verificato anche tu, ascoltando tanta musica con me, che all'interno di un album completo di brani papabili, poi ce ne ne sono due o tre, no? Eh sì, anche perché comunque poi dicevamo è cambiato il modo di ascoltare anche, certo. No? Se tu stai su uno smartphone in giro per la metro per spostarsi da un punto A a un punto B, non ascolti magari tutto il disco, ma ascolti una playlist di 10 brani che ti piace. È proprio di questo che parleremo oggi, leggendo e riferendovi i dati che sono venuti fuori da questa indagine internazionale sui mercati discografici. Ma torniamo a Brandy, che invece fa un salto nel passato da un punto di vista musicale e sonoro con questo brano intitolato Begging and Pleading. Brandy apre il soundcheck di Radio 24. La voce di Brandy in Begging and Pleading, un nuovo brano per lei, però non fa parte di un album. Staremo a vedere, magari prossimamente verrà fuori una nuova produzione per questa piccola campionessa del contemporary R&B. Pare, come dice Francesco Tromba, cugina di Snoop Dogg, ma indagheremo anche su questa cosa. Allora, andiamo a vedere subito come hanno lavorato questi signori della IFPI, o meglio la IFPI, che riunisce i vari mercati discografici, ha commissionato alla Ipsos questa indagine. Quindi come hanno lavorato, Francesco? Sì, allora hanno indagato intanto su 13 dei maggiori mercati di musica, che fanno circa l'84% dell'intero mercato discografico. I punti principali della ricerca che sono venuti fuori sono che il 71% degli utenti online tra i 16 e i 64 anni accede alla musica legalmente, il che è un'ottima notizia, perché mentre in passato era molto più diffusa la pirateria, adesso è diminuita. Di circa il 10%, certo, rispetto agli anni scorsi. I servizi di streaming, tra l'altro in abbonamento, stanno diventando sempre più popolari, anche perché i prezzi si abbassano facendosi concorrenza tra di loro. E quindi un'altra cosa che è venuta fuori molto interessante è che gli smartphone stanno diventando progressivamente, stanno sostituendo i PC, quindi lo smartphone diventa il device, cioè il mezzo con cui si ascolta la musica. Cosa carina che il target più giovane, quello che va dai 16 ai 24 anni, ha iniziato ad acquistarla la musica. Sì, quindi a pagare. Utilizzano il telefonino, lo smartphone, però fortunatamente o fanno abbonamenti. Sì, no? Ai servizi di streaming. Di streaming, oppure comunque la musica la acquistano. Sì, e questa è una bella questa cosa. Questa è un'ottimissima notizia, direi. Certamente per noi che facciamo musica, gli introiti sono veramente bassi, eh? Sì, per la musica, cioè, con i click digitali sulla musica a me arrivano dei papiri enormi e zero. Sì, perché o sei veramente un campione di ascolti, allora lì, certo, qualcosa magari inizi a guadagnare, però devi comunque fare milioni di click. Sì, comunque a livello di servizi di streaming ancora non è proprio paritaria la distribuzione. Vuol dire che dobbiamo andare a fare i concerti, sì, e farci pagare forza bene ai concerti. Assolutamente. Allora, torniamo a Brandy. Questo è un altro brano, sempre nuovissimo, appena pubblicato. Non so se poi ha fatto, vedi, un disco fisico, però senz'altro lo trovate nel formato digitale. Il brano si intitola The Joneses. Di che stiamo parlando? Che cosa? Non lo so, forse qualche parente. Non ho idea. Soundcheck, il suono della musica. Si intitola I Sit at the Table, il nuovo album di Solange Knowles, sorella di Beyoncé, la sorella maggiore senz'altro più famosa. Altrettanto popolare è la mamma, che ancora oggi porta molto bene la sua età, è molto seguita su Instagram, sì, questo ci è raccontato la settimana scorsa. Ebbene, Solange con questo nuovo album, che in italiano potrebbe essere un po', aggiungi un posto a tavola. Sì, no? Qualcosa di simile. Qualcosa di simile. Vede uno dei brani portati, intitolato Cranes in the Sky, rivisitato da un campione di sonorità contemporanee come Kate Ranada. Sì. Questo è il soundcheck di Radio 24. Stiamo verificando i dati che sono venuti fuori da questa indagine della IFPI, giusto? Sì. Che riunisce, insomma, i vari mercati discografici, e per verificare come stanno le cose con l'utilizzo della musica attraverso internet. Allora, vediamo. Sì, prima stavamo parlando appunto del fatto che lo smartphone è diventato il device principale per ascoltare musica, e quindi quindi la diretta conseguenza è che YouTube è il servizio di musica. Una volta era la radio, poi poteva essere anche l'hi-fi a casa, e poi niente, quando è arrivato il mondo digitale abbiamo iniziato Walkman prima. Il Walkman e via dicendo. Poi abbiamo iniziato a utilizzare il computer, adesso invece gli smartphone ci danno la possibilità di ascoltare musica in giro per il mondo. Sì, ed è venuto fuori che l'82% dei visitatori di YouTube lo utilizza per ascoltare musica, quindi non per guardare i video. E un'altra cosa molto interessante è che chi ascolta YouTube, la musica su YouTube, lo fa per ascoltare gli artisti che già conosce, non quindi per conoscerne degli altri. E non per vedere i video. No, non per vedere i video, e soprattutto tu su YouTube cerchi gli artisti che già conosci. Accreditati, sì, certo. Esatto. E quindi come funziona? Tu fai una ricerca su quali piattaforme magari, per i nuovi artisti? A parte che già ti puoi iscrivere ai canali diretti degli artisti, quindi quando appena loro pubblicano qualcosa di nuovo ti arriva la notifica e l'ascolti immediatamente. Ed è quello che succede a noi. Sì. Oramai abbiamo individuato degli artisti che ci interessano, della nuova generazione, e quindi sono loro che ci informano. Sì, un'altra cosa che puoi fare è ovviamente andare a cercare, in base agli artisti che ti piacciono, quello che ti interessano. Però la cosa differente rispetto a quello che magari facciamo noi è che noi cerchiamo su Bandcamp, su SoundCloud, quindi partiamo da un artista e ne conosciamo altri 10 esatto, che magari ci possono interessare, come no, però non è... Esatto, e quindi dopo di conseguenza arrivi su YouTube, che poi è un po' quello che fanno gli artisti: prima pubblicano la loro musica e dopo realizzano dei video, a meno che non sia un artista accreditato che quindi lancia la nuova produzione direttamente con un video che YouTube, anticipa sì, l'album su YouTube. Insomma, più o meno questi sono i meccanismi. Sì, un altro punto molto interessante e molto positivo che è venuto fuori da questa ricerca è che i giovani sono fortemente attratti dalla musica. L'82% della fascia di giovani tra i 13 e i 15 anni utilizza servizi legali per ascoltare la musica, e buona parte di questo 82% di giovani è disposta a pagare per sentire della musica. Ma una volta il target 13-15 anni era quello proprio quasi degli adolescenti, adesso sono diventati già giovani, quindi io sono proprio Matusalemme. Mamma mia, va bene, quindi 13-15 anni utilizzano servizi legali a pagamento per l'acquisizione della musica, naturalmente utilizzando la carta di credito di papà e mamma. Eh sì, pure io facevo così quando appena avevo 5.000 lire ai tempi, 10.000 lire. La paghetta settimanale. Sì, li spendevo tutti in dischi. Allora, andiamo ad ascoltare un nuovo brano prodotto da questo piccolo campioncino inglese, chitarrista, cantante, fa della musica molto elegante, anche facile se vogliamo, ma non banale. Sì, ecco, molto fruibile anche da ascoltare, appunto, come dicevamo, sugli smartphone. Ecco, questo signore si chiama Tom Misch, noi lo abbiamo presentato più volte, soprattutto nella passata edizione, quando è iniziato a farsi conoscere proprio utilizzando la sua piattaforma su SoundCloud, che quindi dà la possibilità a tutti gli appassionati di musica di ascoltarla gratuitamente. Invece ci sono artisti che vogliono mettere a pagamento la loro musica, farla ascoltare a pagamento, magari con un'offerta libera, e utilizzano quindi Bandcamp. Abbiamo raccontato tutto? Sì, diciamo che Bandcamp è molto più versatile, cioè ogni artista può scegliere come far fruire della propria musica. Le puoi mettere a pagamento, puoi mettere una preview di 30 secondi e il resto a pagamento, puoi mettere un'offerta libera o un semplice streaming, come già funziona così su Spotify. Bene, tu sai ballare? Non benissimo. Io sono veramente raccapricciante. non mi so muovere, devo andare a prendere qualche lezione, guarda. A quest'età non so perché. Ma come a quest'età? Perché? Potresti Anzi, dovresti apprezzare che dovresti apprezzare proprio il fatto che io mi metto in discussione ancora oggi. Beh, allora andiamo insieme a prendere lezioni di danza. Si chiama Tom Misch e infatti il brano si intitola Watch Me Dance. Lui come dice però? Watch Me Dance. Watch Me Dance, super inglese. Soundcheck. Il suono della musica. E probabilmente questo Your Love con la partecipazione di Alexa Harley è stato il primo piccolo successo del chitarrista vocalist inglese Tom Misch, del quale vi abbiamo parlato più volte qui al Soundcheck di Radio 24. Allora, parliamo invece di copyright. Sì, allora, uno dei problemi che rimane, ovviamente abbastanza endemico nell'industria discografica, utilizzando la musica attraverso il computer, attraverso internet, sì, è quello della pirateria, ovviamente. Infatti più di un terzo, cioè il 35% degli utenti online, accedono a contenuti musicali senza licenza. Senza licenza. Ovvero piratati. E infatti la metà degli utenti nella fascia tra i 16 e i 24 anni utilizza uno stream ripping, che sarebbe praticamente la registrazione da YouTube o da altri siti che comunque riproducono musica, per trasformare questa riproduzione in file MP3. Quindi praticamente si ruba, tra virgolette. E come si fa questa operazione? Ci sono tantissimi programmi in realtà che lo fanno. Ci sono dei software, sì, che lo fanno con grandissima software. Facilità. Basta copiare il link. No? Sì, boh, non lo diciamo perché... No, basta copiare il link. Sì, è facilissimo, purtroppo. È fare un copia e incolla del link, esatto, di YouTube su questo software, e il software scarica l'MP3. Subito, sì. Tra l'altro senza registrare magari la musichetta dello spot che c'è prima, no? Eh sì, tra l'altro anche quello. Bene, sanno fare di tutto. Allora, andiamo a vedere il consumo di musica nel 2016. Sì, il 71% del campione utilizzato appunto da Ipsos accede alla musica in maniera legale. Questa è un'ottimissima notizia. Mi sembra una buona percentuale. Lo stream, cioè chi utilizza lo streaming, è il 37% del campione. Possiamo spiegare per esempio a mio padre che cos'è lo streaming? Allora, è accedere a delle piattaforme come ad esempio sono Spotify oppure Deezer, che hanno nella loro memoria determinati dischi, determinate uscite. Ovviamente non hanno tutto l'intero catalogo dello scibile della discografia, però la maggior parte della discografia sì. Da lì tu ti connetti tramite internet, schiacci play sul artista o sul disco che vuoi ascoltare e vai in streaming. Quindi per utilizzare lo streaming la cosa più importante è avere una connessione internet affidabile. Sì, altrimenti altrimenti puoi diventare pazzo, no? Sì, inizia a sclerare proprio. Va bene, e quindi quanti abbonamenti in streaming abbiamo in percentuale? È il 18%, in realtà è più del 20% rispetto al dato dell'anno scorso, quindi comunque è una grande crescita, e per questo motivo si sta scatenando anche la concorrenza. Infatti anche Amazon sta cercando di lanciare una sua piattaforma di streaming per fare concorrenza anche a Spotify. Naturalmente, lo abbiamo già detto, il target più giovane utilizza lo smartphone più del computer, vero? Sì, esatto. Per ascoltare musica. Sintetizzando la ricerca, appunto, ancora rimane questo problema endemico della pirateria. Della pirateria. Purtroppo è stata vittima anche di recente Lady Gaga. Infatti il suo disco doveva uscire il 21 ottobre, se non sbaglio, ma è stata piratata ed è uscito 3-4 giorni prima. Quindi è un danno importante questo. Allora, ascoltiamo altra musica, questa è un'altra novità. Io, per fare scopa con il sound di Tom Misch, dance ma elegante, ho trovato questa nuova formazione. Non so se il nome si riferisce alla band o all'artista. No, è l'artista, è una ragazza, l'artista, giovanissima tra l'altro. E che si chiama Wafia. Sì, lei è... O Wafia. Credo Wafia. Wafia. No, forse Wafia, perché lei ha origini anche medio orientali. I suoi genitori vengono dal Medio Oriente, poi si sono trasferiti in Olanda, però lei ha iniziato a suonare, è diventata famosa quando si sono ristabiliti in Australia. Ma incredibile, tu sai cose pure di questa Wafia. Sì, basta cercare un attimo su internet. Si intitola Heartburn, questo brano di Wafia, per il remix di Jeremy al Soundcheck Radio 24. Poi arriva l'informazione della nostra radio preferita, e quindi di nuovo qui su questi schermi per la grande musica del Soundcheck. Well, I guess what hurt me most of all. Soundcheck, Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck dopo l'informazione di Radio 24 con Giorgio Telesforo e Francesco Tromba. Stiamo analizzando i dati che sono venuti fuori da questa indagine che è stata commissionata dalla IFPI alla Ipsos. IFPI, che cos'è? Lo ripetiamo, non è un'agenzia di investigazioni, ma un'associazione di industrie discografiche e fonografiche internazionali. E l'indagine riguarda la fruizione della musica attraverso l'utilizzo del computer, giusto? Esatto. Abbiamo verificato vari dati, quindi l'utilizzo degli smartphone da parte degli utenti più giovani, senz'altro utilizzano gli smartphone per ascoltare musica più del computer, lo streaming sta andando molto bene, c'è ancora una percentuale alta di pirateria, quindi gente che scarica musica abusivamente, magari utilizzando software che permettono loro di poter convertire l'audio da YouTube in MP3, sì, giusto? Esatto. Ma vediamo un po' che cosa succede invece a livello internazionale sullo streaming in abbonamento. Quali sono i paesi dove viene utilizzato di più? Sì, allora il dettaglio dei paesi è molto interessante perché ad esempio viene fuori che in Messico, in Svezia e anche in Corea c'è la percentuale più alta, anche in Spagna è molto alta. Cioè di utilizzo alta. Di streaming, sì. Praticamente di piattaforme tipo Spotify per intenderci. Sì, praticamente 4 utenti su 10 di internet utilizzano dei servizi di streaming in abbonamento, cioè non solo pagando. Utilizzano lo streaming, ma pagano. Ma pagano. È interessante, poi paesi così diversi, così lontani, Messico, Sud Corea e Svezia. E invece, per esempio, Stati Uniti, Italia? Stati Uniti e Italia sono abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda. Ad esempio, Francia ha il 43% degli utenti, gli Stati Uniti il 41% e l'Italia il 40%. Invece è interessante vedere come i paesi in realtà che ne hanno di meno sono il Canada, il 27%, e il Giappone, ultimo in classifica, all'11%. Perché, come abbiamo detto già in un'altra puntata del soundcheck, in Giappone si utilizza ancora comprare proprio fisicamente i dischi e i vinili. È vero. E quindi che cosa significa? Che paesi come il Messico, la Svezia e Sud Corea vanno forte con lo streaming. Per quale motivo? Perché hanno un servizio anche internet come copertura forte, credo. No? Immagino proprio di sì, perché altrimenti senza internet non funziona lo streaming. Ma per noi è impossibile. Ma già, tu immagina che nel nostro paese, già quando tu percorri 50 chilometri ti cambiano ancora le frequenze della radio. Sì. Figurati, non parli al telefono se vai sotto degli alberi. Sì, magari se stai poi in un paese di provincia. Non ne parliamo, perché noi abbiamo un servizio telefonico in internet pessimo rispetto ad altri paesi. Se stai al sud, cioè quasi c'è ancora il 56K. Ma anche al nord ti prendi le tue belle incazzature. Sì, se stai soprattutto nei paesini un po' più lontani dai centri grandi, è un po' un problema. Va bene, rifacciamoci con la buona musica. Anche lei l'abbiamo scoperta utilizzando internet, ma è un artista che si farà notare. Secondo me, con questo album No Name, non so se riuscirà ad accaparrarsi qualche Grammy Award nella sezione rap, ma senz'altro non credo, proprio perché non è stato pubblicato fisicamente questo disco. Il disco però è successo anche a Chance the Rapper, che non ha pubblicato il disco e si è ritrovato nei primi posti della classifica Billboard dell'R&B. Sì, però non è nominabile per perché non c'è il disco perché fisicamente. Non c'è neanche un'etichetta che lo produce, quindi. Però non mi dispiace questa cosa. Sì, in realtà è super moderna. Non mi dispiace perché poi il disco di No Name è veramente bello. Sì, come fatto quello molto anche bene, arrangiato benissimo, poi con la partecipazione di varie guest. Il brano è favoloso, si intitola Shadow Man, il sound unico di No Name al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Takuya Kuroda, trombettista della nuova generazione, si è formato comunque negli Stati Uniti e si sente dal suono, poi tanti anni di militanza nella band di José James. Takuya Kuroda, nuovo album per lui intitolato Zigzagger, e questa è una versione remix proprio del brano che dà il titolo all'album. E anche i disc jockey o soprattutto i producer che realizzano remix in questo momento possono ritenersi soddisfatti. Perché? Sì, perché anche il loro remix entreranno nei servizi di streaming come Spotify e Deezer, mentre adesso era un pochettino più difficile fino a questo momento trovare i loro riarrangiamenti, i loro remix. Adesso sarà molto più semplice riuscire a farlo. Ma perché i nuovi fruitori di musica, i ragazzi, trovano così affascinante il mondo dello streaming? Perché? Beh, principalmente perché è semplicissimo da utilizzare, è immediato. E questa è la prima cosa. Sì, poi tra l'altro anche se tu non sai esattamente cosa ascoltare, magari appunto vuoi ascoltare qualcosa di nuovo che ancora non conosci, ci sono le playlist dedicate in base ai tuoi gusti o in base anche ai momenti della giornata. C'è appunto la playlist per fare colazione la domenica, c'è la playlist dance, c'è la playlist songwriting, quindi è molto variegata l'offerta. Io non mi fido delle playlist. Io sinceramente neanche, però dipende da chi le compila, perché anche tu puoi fare una playlist in automatico. Infatti, no? Io faccio le mie playlist personali utilizzando non solo internet, lo streaming, per capire che cosa c'è in giro, poi mi vado a procurare la musica in maniera legale, ma utilizzando poi tutta la discografia. Qualche volta ho anche riportato tracce dal vinile per suonarle, non avendo magari il CD o il formato in MP3, però io realizzo le mie playlist e ho anche questa fortuna. Vuoi sapere quale? Quale? Di poterle proporle in radio. Ancora oggi, no? Come si faceva una volta. Sì, certo. No. E quindi comunque se segui le persone giuste su Spotify o su altri servizi di streaming puoi anche scoprire della tantissima musica che non conosci, molto interessante. No? Ecco, però c'è proprio una questione di mentalità, cioè gli abbonati ai servizi di streaming audio sono anche persone che si divertono ad acquistare la musica, magari anche i supporti fisici, quindi è proprio una cosa di mentalità. E se sei una persona per bene, utilizzi lo streaming, acquisti la musica legalmente, la scarichi da internet e poi vai a comprare anche il vinile e i CD, giusto? Eh sì, infatti comunque sono ancora, hanno molto successo i mercatini di musica, sia di vinili che di CD. C'è stata una nuova esplosione, potremmo dire, da questo punto di vista del mercato. Allora, dal suono di Takuya Kuroda con la sua tromba, con questo brano intitolato Zigzagger vagamente latino, invece a uno che è latino nel vero senso della parola e anche musicalmente ce lo fa capire subito con questo nuovo album. Questo pianista si chiama Harold Lopez Nussa, doppio cognome per lui. Sì, è tipico dei latini, no? Lui è nato a Cuba, ha una formazione tipicamente classica, però poi ha scoperto di essere innamorato del jazz, quindi ovviamente si è spostato a New York, dove ha lavorato anche con Christian Scott, il trombettista che abbiamo intervistato e che conosciamo molto bene. Hanno fatto dei dischi insieme, hanno fatto diverse partecipazioni e poi lui tra l'altro ha firmato per la Mac Avenue Records, un'etichetta molto importante. Sì, etichetta importante anche perché lancia nuovi artisti e poi li sostiene. Sì, soprattutto li sostiene perché spesso non è una diretta conseguenza. A me è successo diverse volte, no? Di firmare con case discografiche importanti, a volte importantissime, e poi di restare molto deluso perché il lavoro fatto in studio non veniva sostenuto, ma che so, nella promozione, ma anche per altri motivi. Lasciamo perdere. Harold Lopez Nussa, il brano si intitola Me voy pa Cuba, e mio caro Francesco, questo brano mi piace tantissimo. Anche a me. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Compared to What, un classico di Eugene McDaniels nella versione super funk di Terence Blanchard con la sua super band, brano tratto dal nuovo album intitolato Breathless. E ancora una volta Terence Blanchard, Francesco, mi lascia senza fiato, così come il titolo del suo album. Che musicista, lo adoro. Beh, fantastico. Mamma mia, un musicista completo, scrive benissimo, scrive tantissimo anche per il cinema, molte colonne sonore, ha vinto tantissimi premi con i suoi album, ma anche proprio molte nomination proprio per gli Oscar come compositore di colonne sonore. Però dall'Italia non passa molto spesso. No, però pensa che io ho avuto la fortuna, ma tanti, ti sto parlando forse di 20 anni fa, di fare un blues con lui a Umbria Jazz, a un'edizione di Umbria Jazz dove tra l'altro non ero neanche presente nel cartellone dei musicisti, ma ero andato andato lì proprio per vedere Terence Blanchard e alla fine ci siamo ritrovati in una in un dopo concerto da qualche parte, abbiamo fatto due note insieme. E non ha fatto nessuno il video per metterlo su YouTube. No, perché allora non c'erano gli smartphone ancora. No, e infatti sarebbe stata una cosa buona proprio per il fatto che YouTube come servizio di musica è importantissimo. Infatti 9 utenti su 10, quindi il 93% nella fascia fra i 16 e i 24 anni, utilizzano YouTube per la musica a livello globale. Sì, pensa che si arriva a oltre 1 miliardo di utenti, quindi c'è proprio numeri assurdi. Mamma mia. Ma la cosa anche interessante da capire è la differenza tra uomini e donne che utilizzano YouTube. In realtà è abbastanza equilibrata nella fascia di età, cioè nella differenza di genere, scusami, perché l'83% degli uomini utilizza YouTube e invece l'81% delle donne. Beh, quindi insomma, praticamente ci sono, siamo, uguali. Dai. La differenza che c'è principale però a livello di età, cioè nella fascia dai 16 ai 24 anni c'è il 93% di persone che utilizza YouTube per ascoltare musica. Quasi tutti i ragazzi utilizzano YouTube. Infatti pure io appena devo cercare un brano, ovviamente la maggior parte delle volte non sono dentro casa, quindi vado su YouTube e lo ascolto. Ovviamente la qualità però è molto diversa rispetto a quando ascolti un CD fisico, un vinile, no? E invece andando avanti con l'età, quindi quando il target aumenta come sì, ovviamente età, scende la percentuale perché comunque è abbastanza alta, considerando che nella fascia tra i 55 e i 64 anni c'è ancora un 69% di persone che utilizza YouTube, quindi comunque è abbastanza alta la percentuale. Va bene, vediamo invece i paesi. Ovviamente, come dicevamo prima, il Messico ha il record assoluto, non si capisce. Io non mi spiego questa cosa. Sì, in effetti non è molto avranno una logica. Linea internet potentissima. Per favore, messicani, ci portate un po' di internet. E invece, come prevedibile, il Giappone è quello che utilizza meno YouTube, con il 71%. Ecco, questo non perché non abbiano una linea internet affidabile, ma perché i giapponesi vogliono comprare la musica. Sì, vogliono il rapporto fisico con la musica. Lo abbiamo già raccontato che in Giappone si vende il vinile, è il paese dove il vinile va ancora fortissimo. C'è il maggior numero di negozi di dischi per abitante. Ma lo so bene, perché anche molti producer italiani stampano il vinile e lo spediscono direttamente sul mercato giapponese. Invece l'utilizzo di YouTube nel nostro paese è molto alto, il 91%, quindi comunque utilizziamo parecchio YouTube per ascoltare la musica. Allora, ascoltiamo invece musica eccezionale. Abbiamo dedicato un'intera puntata alla vocalità, al talento e alla personalità di questa vocalist americana chiamata Gretchen Parlato. Direi di ascoltare un pezzettino di questo brano tratto dall'ultimo album Concerto dal vivo a New York con i suoi meravigliosi musicisti. Vorrei soltanto ricordare Kendrick Scott alla batteria, Taylor Hexty al pianoforte, bravissimo, che bravo questo ragazzo, presto dovrebbe arrivare in Italia con il nostro amico Sasha Alvasandani. Ah, dobbiamo andare allora a intervistarlo. Assolutamente sì, no, magari li facciamo venire qua, ci facciamo suonare qualcosa. Sarebbe bellissimo. Bellissimo. E in alcuni brani c'è Alan Hampton oppure Barney Travis al basso elettrico, live in New York City, Gretchen Parlato, il brano si intitola Wake. Soundcheck. Il suono della musica. E beh, loro sono bravissimi, un trio di chitarristi favolosi, New West Guitar Group, naturalmente americani, ma lei è splendida. Lei è splendida e si chiama Becca Stevens, è anche una delle mie vocalist preferite, mi piace proprio, mi piace anche fisicamente Becca Stevens. Si vede, c'è gli occhi a cuoricino quando parli di lei. È una ragazza splendida, è una brava persona, preparata, conosce la musica, è una brava chitarrista, compone, scrive, arrangia, gira il mondo con i più grandi musicisti del momento. Vabbè, non voglio più parlare di lei perché sennò mi commuovo. Invitiamola qua, no? Magari, prima o poi ci incontreremo, Becca. Allora stiamo per chiudere questo appuntamento del nostro soundcheck. Vi abbiamo raccontato tutto quello che potevamo dopo aver letto i dati importanti che sono venuti fuori da questa ricerca della IFPI per la Ipsos, che indagine che riguarda lo streaming, ovvero l'utilizzo della musica attraverso internet. Ma c'è ancora qualcosa di bello che potremmo raccontare? Sì, la notizia in assoluto più positiva è che la fascia di giovani tra i 13 e i 15 anni accede alla musica con licenza per l'82% ed è anche disposta a pagare per ascoltare musica. Quindi abbiamo a che fare con dei bravi ragazzi nella fascia 13-15 anni. L'82% di bravi ragazzi scarica la musica legalmente o ascolta via streaming. Sì, considerando che potevano in realtà essere tutti tranquillamente dei pirati, degli hacker potenziali, senz'altro. È un'ottimissima notizia sia per i musicisti che per Ma l'industria forse discografica. Forse perché ancora non si sono sporcati le mani con il lavoro. Cioè, voglio dire, 13-15 anni tu hai la paghetta di papà e mamma, poi quando invece devi iniziare a lavorare per guadagnarteli i soldi, quindi è capace che già se rientri nella fascia 16-24 anni è capace che inizi a scaricare. In realtà pure loro sono abbastanza... comprano abbastanza. Meno male, siamo tutti contenti. Se poi dovessero tornare anche a comprare i CD finché durerà il supporto, saremo ancora più felici. Ma già il digital downloading sarebbe un grandissimo passo avanti, già solo quello. Va bene, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani 19:15, sempre qui su Radio 24, puntata completamente dedicata alla storia, alla vita e la musica della poetessa del funk from Philadelphia, Jill Scott. Vi lasciamo con The Great City, sigla del nostro programma Variazioni su tema, in onda su Rai 5 il mercoledì alle 21:15, programma che racconta la vita, le storie e le vicende dei poveri musicisti. Sì, quindi seguiteci ogni mercoledì alle 21:15 su Rai 5.